queste questioni per un tempo troppo lungo. Senta, a proposito di Partito Democratico, insomma, fa discutere molto la proposta del vicepresidente del gruppo al Senato, La Torre, che ha detto il Partito Democratico si rifondi e entri anche Vendola all'interno del Partito Democratico. Lei come la vede? Ma io non credo intanto che bisogna rifondare il Partito Democratico, anche perché soltanto nella politica italiana si assiste a questo fenomeno di continua nascita, morte, fondazione, rifondazione di partiti, e sono troppe, diciamo, le volte in cui a sinistra, al centro, a destra la politica italiana mette in discussione se stessa, e questo non trasmette un'idea di stabilità e di solidità. Cambiare è giusto, cambiare è segno di intelligenza, aprirsi all'innovazione è fondamentale, ma lo si deve fare anche mantenendo dei fattori di stabilità, e un partito politico non può ogni giorno mettere in discussione se stesso. Ma cambiare cosa vuol dire? Quanto al fatto che il Partito Democratico possa aprirsi a Vendola, il Partito Democratico è un partito che punta a unire tutti coloro che si riconoscono in valori progressisti e riformisti, e quindi siamo un partito aperto sempre al contributo di nuove forze. Naturalmente se Vendola ritiene di collocarsi dentro il Partito Democratico può evidentemente manifestare questa intenzione, e allora si aprirà un confronto politico, ma fino ad oggi non mi pare di aver visto questa intenzione. Cioè è lui che dovrebbe, diciamo, riconoscersi nei valori del Partito Democratico ed entrare nel partito? Sì. Manifestare questa intenzione, questa volontà di essere parte del Partito Democratico, dopodiché evidentemente si aprirebbe il confronto necessario, ma fino ad oggi questa manifestazione di volontà non c'è stata. E invece dei rottamatori cosiddetti, che lei farebbe parte, secondo Renzi, di quelli che dovrebbe andare a casa, insomma, per come si... Ma guarda, non credo che sia così per quello che mi riguarda, perché se c'è una persona che mi ha manifestato apprezzamento per questa eventuale candidatura a Torino è proprio Renzi. No, ma per i due mandati, per la questione rottamiamo i vecchi. Io non amo la parola rottamatore, che non mi pare una parola adeguata. Capisco invece il tema è quello di facilitare, accelerare un rinnovamento della classe dirigente, della classe politica, e credo che sia giusto. Anzi, io penso che la responsabilità della nostra generazione, la mia generazione che sta sulla scena politica da un certo numero di anni, è quella di creare le condizioni per passare la mano a una generazione successiva. Lo abbiamo già cominciato a fare, guardi che la stragrande maggioranza dei segretari provinciali e regionali del Partito Democratico sta tra i 35 e i 45 anni. Bersani ha attorno a sé una segreteria fatta tutta di giovani, che stiamo via via promuovendo e lanciando sempre di più. Abbiamo tantissimi sindaci e amministratori pubblici che stanno in una generazione anch'essa che sta tra i 35 e i 45 anni. Quindi è un processo già in essere, già in e molto avanzato, quello del rinnovamento della nostra classe dirigente. Onorevole Fassino, le chiedo, la vicenda Wikileaks, che certamente ha visto anche lei, tra l'altro lei è stata anche sottosegretaria, ha lavorato alla Farnesina, è gossip di terzo ordine, come ha detto Berlusconi, o c'è qualcosa di serio secondo lei? No, non è un gossip di terzo ordine, nel senso che si tratta dei rapporti, delle relazioni, dei dispacci diplomatici che normalmente le ambasciate mandano al proprio Ministero degli Esteri. Io ho lavorato al Ministero degli Esteri e leggevo quotidianamente centinaia e centinaia di telegrammi che venivano dalle nostre ambasciate con informazioni di varia natura. Non ci sono in quel materiale novità sconvolgenti, ci sono, in un linguaggio forse più rude, ma il linguaggio più rude è anche perché si tratta di materiali riservati in cui bisogna essere più franchi e più sinceri, cose che peraltro sono ampiamente note, cioè che per esempio non fosse guardato con simpatia dagli Stati Uniti un rapporto non chiaro tra Berlusconi e Putin, Berlusconi e Gheddafi, non è una novità che esce da queste carte. Queste carte ce la conferma, e quindi per questo sono importanti, di questa diffidenza e di questo disagio degli Stati Uniti nei confronti di una politica italiana di cui non si capisce il senso. L'ultima domanda, mi faccia un pronostico per il 14 dicembre, tanto qua ogni giorno se ne sente una, e voglio dire, ci sarà la fiducia, ci sarà la sfiducia? Ma vedremo, io sono portato a pensare che non avrà la maggioranza assoluta dei voti in Parlamento, Berlusconi quantomeno alla Camera non prenderà 316 voti, ma comunque si vedrà. Però per me, e credo per tanti, il problema è molto semplice: che abbia 316 o 314 voti, la crisi del centrodestra non cambia di una virgola, perché il centrodestra è in crisi non perché Berlusconi e Fini hanno litigato, quella non è la causa della crisi, quella è la conseguenza della crisi. Il centrodestra è in crisi perché la disoccupazione è all'11%, perché l'economia è ferma, perché Napoli è piena di immondizia, perché L'Aquila chiede una ricostruzione che non si vede da quando è cominciato il terremoto, perché la scuola e l'università sono in subbuglio, perché il progetto di governo della destra ha fallito. Quello, le promesse, gli obiettivi su cui Berlusconi aveva raccolto il voto nel 2008 non si sono visti, e quindi per questo la maggioranza del centrodestra è in crisi. E questa crisi non si risolve con l'aritmetica. Secondo me, anche prendesse la fiducia il giorno dopo, Berlusconi è non in grado di affrontare i problemi del paese e l'Italia sarebbe sempre in una condizione di crisi politica. La ringrazio, buona giornata Piero Fassino nel Partito Democratico. Noi ci fermiamo, pubblicità e meteo. Nel nostro sondaggio parliamo per l'appunto di WikiLeaks e vi chiediamo, sono rivelazioni che vanno fatte in nome della trasparenza, è l'hacker etico, qualcuno dice Julian Assange, in nome della trasparenza fa sapere tutto, oppure è un criminale come fanno sapere dagli Stati Uniti che vogliono anche ora imputargli mettergli qualche capo di imputazione magari sul collo e non si sa tanto dov'è, e quindi è invece un criminale. Che ne pensate? Radio24.it, il nostro sondaggio, oppure 800 24 0024, tra poco 24 mattino. Eccoci qui alle 8:33 minuti, parliamo anche noi di WikiLeaks e vi chiediamo, è giusto quello che sta facendo questo sito, oppure in nome della trasparenza mondiale, mettendo online e svelando 200 e rotti mila cablo riservati delle diplomazie americane, oppure sbaglia? Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? E allora eccoci qua, per ora voi nel sondaggio dice il 63% di voi dice fa bene WikiLeaks. Intanto lo voglio chiedere all'ambasciatore Sergio Romano. Buongiorno ambasciatore. Buongiorno. Senta, a me, ma lo dico lombrosianamente parlando perché non lo conosco, questo Julian Assange non è che mi stia molto antipatico così. Non so se lei lo vede come un... Se si mette ancora nei panni dell'ambasciatore... come una persona di cui diffidare o a cui dare del criminale, come ha fatto qualcuno in America, oppure no? Ma io credo che occorra mettersi nei panni di una persona che giudica una iniziativa come questa sotto il profilo dell'utilità politica e morale. Vedi, ci sono state altre fughe di notizie nella storia americana, quella delle carte del Pentagono, per esempio, all'inizio degli anni 70, quando una persona fotocopiò un numero considerevole di documenti, grosso modo 42 volumi di documenti, poco meno di 4.000, e li distribuì al New York Times e poi finirono anche al Washington Post. Ma quel signore aveva una motivazione civile, voleva qualche cosa, voleva che l'America fosse consapevole degli errori che erano stati commessi con la guerra del Vietnam. Si proponeva un obiettivo. Qual è l'obiettivo di Assange? Pare che dica le istituzioni in quanto tali corrompono e quindi vanno sfidate. Questo è un articolo di fede. Io agli articoli di fede non ho mai creduto, perché voglio dire, che cosa significa le istituzioni corrompono? Alcune istituzioni corrompono di più, altre di meno, e questo vale per tutti noi nel corso della nostra esistenza. E le crociate non mi sono mai piaciute, e tra l'altro osservo che questa massa di informazioni che sono finite sul mercato mediatico grazie a WikiLeaks finiscono tra l'altro per rendere poco interessante e poco utili quelle informazioni che pur esistono all'interno del pacchetto dei 250.000 files e che potrebbero invece essere effettivamente rivelatori di pratiche che non debbono essere seguite, di errori che sono che è importante che la pubblica opinione conosca. Che senso ha rovesciare sul mercato sempre delle informazioni che tra l'altro ci confermano quello che noi sapevamo? Davvero dobbiamo leggere WikiLeaks per sapere che i paesi arabo-sudditi del Golfo detestano l'Iran? O che l'America è preoccupata da certi aspetti della politica russa, o cinesi, nordcoreani? In altre parole, finiamo per sapere quello che già sapevamo e ci compiace il fatto di saperlo, di ascoltarlo dalla voce dei protagonisti. Sì. Però l'obiezione a questo è, se davvero, come moltissimi commentatori dicono, in fondo non si sa nulla di nuovo, non svela nulla di nuovo tutti questi documenti, allora perché Assange deve vivere braccato, non si sa dove sia, è dato per criminale, qualcuno, Frattini ha detto è l'11 settembre della diplomazia? Ma pare che Assange viva in queste condizioni perché c'è un mandato di cattura della magistratura svedese. Sì, questo sì. Beh, allora voglio dire, che cosa facciamo? Pensiamo che la magistratura svedese sta operando agli ordini del Dipartimento di Stato? Quindi è solo questo, cioè, però anche il fatto che sia stato, questo effettivamente è inseguito da due mandati per stupro in Svezia, però il fatto che venga definito un criminale pericolosissimo per esempio dal Dipartimento di Stato americano, insomma, confligge un po' col fatto che le notizie siano niente di nuovo. No, il problema non è tanto se le notizie siano nuove o no, anzitutto il linguaggio del Dipartimento di Stato fa evidentemente parte della dialettica politico-giudiziaria, il Dipartimento di Stato lo vuole portare in tribunale e a questo punto alza naturalmente la voce, ma il problema è un altro, quello più delicato, è il fatto che naturalmente questi messaggi in alcuni casi rivelano la rete di informazioni riservate del Dipartimento di Stato, rivelano la fonte di una notizia, il collaboratore, l'intermediario, il sensale, beh, a questo punto naturalmente tutto diventa molto più difficile. Allora, se Assange ritiene che si possa vivere senza i servizi di sicurezza, senza i servizi di intelligence, beh, fa parte ancora una volta di quelle crociate un po' velleitarie. Che non le piacciono. Intanto io voglio salutare, la ringrazio moltissimo, ambasciatore Sergio Romano, Margherita Boniver, Popolo della Libertà, buongiorno, fa parte della Commissione Affari Esteri della Camera, è stata anche sottosegretaria agli esteri, insomma ha esperienza di cose legate alla Farnesina, alle relazioni diplomatiche. E Giulietto Chiesa, che ritrovo con piacere, buongiorno Chiesa, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Onorevole Boniver, perché per esempio Berlusconi dice un complotto? Ecco, questa, a me quando torna la parola complotto, poi dopo sa, complotto è tutto, no? Apre a degli scenari, c'è sempre un po' questa mania del complotto che ogni tanto si tira fuori. Anche lei pensa che sia un complotto, onorevole Boniver? Parola giusta, ma non è stata usata soprattutto nei confronti di questa colossale fuga di notizie che riguarda, come lei ha appena detto, un quarto di milioni di files che avrebbero dovuto rimanere riservati. Ora abbiamo visto la reazione dell'amministrazione americana, che non parla di complotto, però parla di un durissimo attacco, non soltanto all'amministrazione Obama, ma anche alle relazioni internazionali, e come non dare ragione a Hillary Clinton, perché in effetti, malgrado la sensazione che questa colossale fuga di notizie in un primo momento sembrava una sorta di petardo un po' bagnato, perché in realtà non svelava nulla di particolarmente tragico che già in qualche modo non si sapesse o non avessimo avuto modo di capire, e però insomma nessuno fino adesso ha detto che la pubblicazione illegale di documenti riservati è un attentato vero e proprio alla libertà di pensiero, la libertà di azione, insomma è un attentato contro la democrazia, quello sicuramente. Ma come Assange dice, io mi muovo per la democrazia globale, il mondo deve sapere la verità svelata, ecco, sì, come sì, mi rendo conto, ma, francamente fa sorridere, se non fosse veramente piuttosto grave quello che sta succedendo. Non è la prima volta che WikiLeaks pubblica documenti riservati, è stato credo piuttosto devastante quando ha pubblicato le carte sulla guerra in Iraq. Sì, anche un video. Probabilmente un video. Di questo quarto di milione di documenti verranno fuori nei prossimi giorni, magari cose ancora più imbarazzanti, sempre per l'amministrazione americana o per qualche leader, però insomma è un metodo questo che se osservato con un po' di pazienza, è un metodo questo che mette veramente a repentaglio la sicurezza dei canali diplomatici, dei rapporti internazionali, dei rapporti bilaterali, insomma. No, ma può fare dei danni, ma qualcosa probabilmente li ha già fatti. Giulietto Chiesa, che ha fatto bene questo Julian Assange, che ne pensa? Se lo guarda in faccia, che gli ispira? Fiducia, simpatia o è un mezzo pazzo? Guardarlo in faccia no, guardare in faccia qualcuno non salva, non dà nessuna possibilità di giudizio, però quello che ha fatto No, quello che ha fatto secondo me fa parte della società della comunicazione in cui viviamo, in cui c'è di tutto, il contrario di tutto. Io credo semplicemente che sia quasi inevitabile ora e nel futuro che questo tipo di fughe esistano, tutto compreso se sappiamo di più di come agiscono i poteri, anche quelli diplomatici, anche quelli dei servizi segreti, secondo me tanto di più avremo da guadagnare. Secondo me il fatto di sapere alcune cose, di avere la certezza che sono accadute o che stanno per accadere addirittura, ci è di grande vantaggio. Però esempio, sapere che qualcuno definisce un grassoccio il leader, il dittatore della Corea del Nord, o un mezzo pazzo Ahmadinejad, o una instabile di mente la presidente argentina Cristina Kirchner, in cose che devono rimanersi riservate, che cosa ci dà di più se non creare dei problemi ovvi di relazioni diplomatiche tra questi paesi, chiese? Non saprei, ma ho l'impressione che questo ci apra uno squarcio innanzitutto sul livello intellettuale di certi settori del corpo diplomatico e di come ragionano, anche questo è molto importante. Si tratta di funzionari pubblici che danno giudizi, a quanto pare, in qualche caso molto superficiali, in altri casi molto personali. Se si ragiona, se i governi prendono le decisioni sulla base di questi dispacci, che Dio ci salvi, tutto compreso. Quindi da questo punto di vista è molto interessante proprio penetrare nella psicologia di questa gente, spesso, come sappiamo, non all'altezza dei suoi compiti, spesso non informata adeguatamente, spesso culturalmente non adatta al ruolo che compie. Questo sarebbe un contributo utile, cioè allora, non sarà tutti i giorni, ma comunque sostanzialmente adesso ne sappiamo di più di prima. Il diritto di sapere, tra l'altro il 60% per ora si aggiorna la percentuale del nostro ascoltatore, dice sul sondaggio, sì è giusto far sapere. Voglio ascoltare il parere di Giovanni da Mantova, il primo ascoltatore. Giovanni, che dice lei? Pronto, buongiorno, grazie dica. Di avermi dica, dica. Parlare. Una cosa molto semplice, io ho 68 anni e so quasi per certo che noi abbiamo il segreto di Stato su cose avvenute decenni e decenni fa. Sì. Così, ecco, ora io trovo ingiusto che uno Stato si arroghi il diritto di non far conoscere ai cittadini i fatti avvenuti 50, 60 anni fa, perché la gente deve sapere, ma non per una forma di di rivolta, ma perché deve sapere per poter comportarsi di conseguenza. Mi scusi Giovanni, però questo non è sapere dei fatti, questi sono delle informazioni che quotidianamente da tutte le ambasciate del mondo, tutti i paesi mandano alle loro capitali, in questo caso Washington. Cioè sono rapporti riservati, nel senso è successo questo, che ne so, in Kazakistan il presidente ha fatto questa cosa e quindi l'ambasciata del Kazakistan avvisa Washington, sappiate che il presidente ha fatto questa cosa. Cioè, perché lei, Giovanni, lo vuole sapere? È la base delle relazioni diplomatiche che ci sia qualcosa che rimanga segreto, altrimenti... Ma sì, ma qualcosa, ma non sistematicamente tutto. Noi non sappiamo niente di niente normalmente e siamo informati semplicemente della crosta delle cose, ma non della sostanza delle cose. E questo viene su tutto. E questo le dà fastidio? Sì, mi dà molto fastidio perché avendo 68 anni... Io credo di avere la maturità di poterle capire e di potermi comportare di conseguenza. Siamo tenuti all'oscuro come dei poppanti. Va bene, quindi se l'ambasciatore della Corea del Nord, che non so neanche se c'è l'ambasciata americana in Corea del Nord, dice che Kim Jong-il è un grassoccio pazzo a Washington in un rapporto riservato, lei lo vuole sapere. Va bene, e questa è la sua posizione, la ringrazio. Andiamo alle informazioni sul traffico e poi rientriamo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? È sempre scesa di un punto percentuale, il 59% di voi dice fa bene questo signore Julian Assange e la sua Wikileaks a svelare tutti questi documenti segreti. Onorevole Boniver, le chiedo, subito la reazione che veniva affidata a Palazzo Chigi era quella di una risata. Pare ieri però il Corriere della Sera dice Berlusconi è andato da Gheddafi, è apparso più col volto teso, un po' tirato, non è che ha sorriso della cosa, è venuta ancora fuori la vicenda dei festini selvaggi. Berlusconi ha detto non ho mai preso parte a questi festini selvaggi di cui si parla. Davvero crede che non ci possa essere anche una ripercussione sul Presidente del Consiglio? No, non credo che ci possano essere, anche perché le cose che questa diplomatica americana, Elizabeth Devon, scrive nei suoi rapporti l'anno scorso, nel 2009, se ricordo, sono francamente valutazioni su Berlusconi che sono apparse decine di volte, centinaia di volte sulla stampa italiana, sulla stampa internazionale, quindi non credo proprio che l'ambasciata americana a Roma dica per la firma di questa signora delle cose particolarmente inedite. Casomai c'è da cercare di capire per quale motivo mi sembra che la lingua batte dove il dente duole per le relazioni eccellenti che intercorrono fra il governo Berlusconi e il governo russo, il governo libico, insomma dove al centro evidentemente c'è un interesse strategico nazionale per i fornimenti energetici. Perché gli americani sono piccati da questo tipo di strette e anche fruttuose relazioni bilaterali? Evidentemente perché immaginano di essere in qualche modo scartati, danneggiati da questo. Qui vede che però fare il passo a dire il possibile complotto è breve, no? L'idea, no? Dice gli americani potrebbero essere infastiditi di queste relazioni molto strette con Putin e Gheddafi, tanto da calcare un po' la mano magari su altri giudizi? Sì, sì, anche, ma insomma io penso francamente una cosa diversa, cioè credo che questa fuga di notizie a questo livello sia soprattutto un attacco diretto verso Barack Obama, perché è la sua amministrazione che dà la sensazione di non sapere in qualche modo reagire a questo danno di immagine spaventoso, un danno d'immagine per la diplomazia americana. Beh, ma Assange l'ha detto che nel suo mirino c'è anche l'amministrazione Obama, quindi questo sì. Fondatore di Wikileaks l'ha detto in maniera molto chiara. Voglio sentire, prima di tornare da Giulietto Chiesa, Lorenzo da Milano, che ne pensa? Buongiorno Lorenzo. Buongiorno. Se uno fa una piccola ricerca in internet e va a cercare su Wikipedia sì? quattro informazioni riguardo a Wikileaks, scopre che non è un hacker, quindi non è che viola siti internet, ma Dropbox, no. Però non viene mai detto. Che no, lui non è un hacker, c'è qualcuno che viola per lui evidentemente e poi... Più che viola da quanto si... Recupera in qualche modo. Recupera in qualche modo, e il modo più semplice per recuperare sono... persone che lavorano dentro, per cui l'ambasciatore di prima che dice che non ci sono persone mosse eticamente, qua ci sono persone che passano documenti, persone che probabilmente, su questa cosa non si può dire, ma è facile pensare che lavorano anche dentro. Quindi, beh certo, ma infatti ha incriminato un soldato americano che è quello accusato di aver passato tutti, pare che faceva questo stratagemma, andava con un CD di Lady Gaga, non è una barzelletta, la trovate oggi sui giornali, con la copertina di Lady Gaga, entrava al Pentagono, si metteva la postazione, cancellava la musica di Lady Gaga e ci metteva tutti i file e rimetteva la copertina di Lady Gaga, usciva cantando Alejandro, Alejandro, e lo facevano passare così, e pare che è tutto uscito nel mondo, e anche queste cose avvengono per motivi così un po' banali. Massimo da Roma invece, che ne pensa Massimo? Sì, mi sente? Benissimo, dica. Sì, buongiorno a tutti. No, niente, io volevo dire due cose, diciamo, una sicuramente che fa parte del gioco, cioè fa parte del gioco sia della democrazia, ogni tanto venire a sapere qualcosa che insomma altrimenti i nostri, come dire, tra virgolette genitori ci tengono nascosto. E fa parte anche del gioco della sicurezza avere, diciamo, dei buchi, perché il fatto che la sicurezza venga forzata a migliorare la sicurezza. Si è capito come è stata forzata, no? Glielo ripeto, questo che entrava col CD di Lady Gaga, metteva i file e usciva canticchiando le canzoni di Lady Gaga dal Pentagono e così diceva questo va bene, visto? se sono così ingenui impareranno insomma dai loro errori come fanno i bambini che crescono. Chissà. No, intanto però, mi lasci dare no. Mi lasci, no, la ringrazio Massimo, devo andare da Giulietto Chiesa che con lui voglio chiudere. Giulietto Chiesa, anche sapere che Berlusconi abbia affari con, faccia affari o abbia una stretta relazione l'Italia con Putin e con Gheddafi, insomma non è che ci voleva Wikileaks adesso, no, a dircelo. No, questo no, non ci voleva Wikileaks, però non sottovaluterei quello che sta accadendo. Io credo che sia una cosa abbastanza importante. importante che noi possiamo mettere il naso dentro tutte queste faccende. Faccio solo un esempio importantissimo. Si è detto in tutti questi mesi che c'è un attacco in preparazione contro l'Iran. Bene, da questi documenti emerge con tutta evidenza che questo attacco è in preparazione, e questa per esempio è una notizia che ancora deve avvenire, quindi è un'informazione di estrema importanza per il pubblico, che viene tenuto all'oscuro normalmente di questi preparativi di guerra. Quindi il fatto che ci sia stato in tutti questi due anni un continuo tiramola tra Israele e Stati Uniti per decidere questa cosa, beh, insomma, mi dà un'informazione, a me che guardo la politica internazionale, mi dà un'informazione preziosissima. Sì, anche c'è già da dire che non so se c'è l'ordine per l'attacco, non credo che venga da un ambasciatore che informi Washington. Sono tutti, come dire, schermaglie, se vuole, no? Possiamo dire così. Si capisce anche come funziona il meccanismo, però se mi consenti vorrei dire ancora una cosa. Ho letto ieri sul New York Times che si tratta comunque anche queste di notizie abbastanza, come dire, depurate e redatte. Sì, è vero. Un po' tartufescamente, ma con sincerità comunque, dice che quello che stanno pubblicando è stato prima di tutto filtrato dal Dipartimento di Stato ed è stato in qualche misura, non dico autorizzato, ma addirittura redatto due volte. Una volta dal Dipartimento di Stato, una volta dal New York Times, e una seconda volta il New York Times addirittura ha fatto una cosa straordinaria, singolare almeno: ha mandato tutti i documenti filtrati dal Dipartimento di Stato a WikiLeaks, sì, per vedere se ci si può mettere d'accordo. Quindi di fatto anche qui siamo di fronte a un'operazione mediatica molto complessa. Ma è chiaro, insomma, in fondo un po' di sicurezza nazionale ce la vogliamo anche garantire, rischiare che non venga del tutto violata. Io comunque mi fermo qui ringraziando l'onorevole Margherita Boniver e Giulietto Chiesa, oltre l'ambasciatore Sergio Romano che è stato con noi in apertura, e allora con Antonella Migliaccio in redazione e Peter Bescapè in regia, che dire, 24 mattino e radio24.it, ci siamo anche domattina e diamo la linea a Oscar Giannino.